Capitolo 159. Paride ed Elena. Quando Elena, la bellissima figlia di Leda, raggiunse l'età da marito, tutti i principi di Grecia si presentarono al palazzo del suo patrigno Tindario con ricchi doni per chiedere la sua mano oppure si fecero rappresentare da parenti. Diomede, reduce dalla sua vittoria su Tebe, si trovò colà in compagnia di Aiace, Teucro, Filottete, Idomeneo, Patroclo, Menesteo e molti altri. Anche Odisseo giunse al palazzo, ma a mani vuote, poiché non aveva la minima possibilità di successo. Infatti, benché i Dioscuri, fratelli di Elena, volessero maritarla a Menesteo di Atene, essa avrebbe dovuto essere concessa in sposa al principe Menelao, il più ricco degli Achei, rappresentato dal potente genero di Tindario, Agamennone. E Odisseo lo sapeva. Tindario non respinse alcuno dei pretendenti né, d'altro canto, volle accettare i doni offerti, poiché temeva che la sua preferenza per questo o quel principe potesse far nascere dispute tra gli altri. Odisseo così gli disse un giorno: «Se ti consigliassi un buon sistema per evitare una disputa, mi aiuteresti tu in cambio a sposare Penelope, figlia di Icario?» «Affare fatto», rispose Tindario. Allora, continuò Odisseo, «il mio consiglio è questo: insisti perché tutti i pretendenti di Elena si impegnino a difendere il suo promesso sposo contro chiunque si adonti per la sua buona sorte». Tindario convenne che quella era un'ottima soluzione. Dopo aver sacrificato e fatto a pezzi un cavallo, pregò tutti i pretendenti di disporsi in cerchio attorno alle carni sanguinanti e di ripetere il giuramento formulato da Odisseo. La carne del cavallo fu poi bruciata in un punto che ancora si chiama Tomba del Cavallo. Non si sa se Tindario stesso scelse il marito di Elena, oppure se essa indicò la propria preferenza cingendo con una corona il capo dell'eletto. Sposò comunque Menelao, che divenne re di Sparta dopo la morte di Tindario e la divinizzazione dei Dioscuri. Un triste fato tuttavia incombeva sul loro matrimonio. Anni prima, mentre stava sacrificando agli dei, Tindario si era stupidamente scordato di Afrodite, che si vendicò giurando di rendere famose per i loro adulteri le tre figlie del re, Clitennestra, Timandra ed Elena. Menelao ebbe da Elena una figlia che chiamò Ermione. I loro figli maschi furono Eziola, Marafio, da cui si vanta di discendere la famiglia persiana dei Marafioni, e Plistene. Una schiava etolica, chiamata Pieride, generò poi a Menelao due bastardi gemelli, Nicostrato e Megapente. Perché, ci si chiede, Zeus e Temi fecero scoppiare la guerra di Troia? Forse per rendere famosa Elena, che aveva messo l'una contro l'altra Asia ed Europa? Oppure per esaltare la stirpe dei semidei e al tempo stesso decimare le tribù popolose che opprimevano la faccia della madre terra? Le ragioni che mossero gli dei rimarranno per sempre oscure, ma la decisione era già stata presa quando Eris gettò la mela d'oro con la scritta «Alla più bella» sul tavolo del banchetto alle nozze tra Peleo e Teti. Zeus onnipotente si rifiutò di appianare la disputa sorta tra Era, Atena e Afrodite, e lasciò che Ermete guidasse le tre dee sul monte Ida, dove Paride, figlio di Priamo, avrebbe fatto da arbitro. Ora, poco prima della nascita di Paride, Ecuba sognò di generare una fascina di legna brulicante di serpenti e si destò gridando che la città di Troia e le foreste del monte Ida erano in fiamme. Priamo subito consultò Esaco, il figliolo suo veggente, che annunciò: «Il bimbo che sta per nascere sarà la rovina della nostra patria. Ti supplico di liberartene». Pochi giorni dopo Esaco profetizzò di nuovo: «Le principesse troiane che partoriranno oggi dovranno essere uccise e così pure i loro figli». E infatti Priamo uccise sua sorella Cilla e il di lei figlio Munippo, nato quella mattina da segrete nozze con Timete, e li seppellì nel sacro recinto di Troo. Anche Ecuba mise alla luce un bimbo prima del calar del sole, ma Priamo risparmiò le loro vite, benché Erofila, sacerdotessa di Apollo, e altri veggenti supplicassero Ecuba di uccidere almeno il bambino. Essa non ne ebbe il coraggio, e infine Priamo decise di mandare a chiamare uno dei suoi pastori, un certo Agelao, e di affidargli quel triste compito. Agelao, che aveva il cuore troppo tenero per usare la corda o la spada, abbandonò il bimbo sul monte Ida, dove fu allattato da un'orsa. Ritornato sul posto 5 giorni dopo, Agelao rimase di stucco alla vista di quel prodigio e portò con sé il bimbo in una borsa, di cui il nome di Paride, e lo allevò con il proprio figlio appena nato. Presentò poi a Priamo la lingua di un cane, come prova che i suoi ordini erano stati eseguiti. Ma alcuni dicono che Ecuba pagò Agelao perché risparmiasse la vita di Paride e celasse la verità a Priamo. Il nobile sangue di Paride si palesò ben presto nella sua radiosa bellezza, nella sua intelligenza e nella sua forza eccezionale. Ancora fanciullo mise in fuga una banda di razziatori e recuperò le bestie che essi avevano rubate, meritandosi così il soprannome di Alessandro. Benché a quell'epoca egli fosse poco più che uno schiavo, divenne l'amante prediletto di Enone, figlia del fiume Eneo e ninfa delle fonti. Rea le aveva insegnato l'arte della profezia e Apollo, mentre era mandriano di Laomedonte, l'aveva istruita nella scienza della medicina. Paride ed Enone, radunati i loro greggi, usavano cacciare assieme. Egli incideva il nome della ninfa sulle cortecce dei faggi e dei pioppi. Lo svago favorito di Paride consisteva nel far lottare i tori di Agelao l'uno contro l'altro. Coronava poi il vincitore con dei fiori e il perdente con della paglia. Quando uno di codesti tori cominciò a vincere con regolarità, Paride lanciò una sfida ai tori campioni delle mandrie vicine e tutti furono sconfitti. Infine Paride propose come premio una corona d'oro al toro che riuscisse a superare il suo. Ares allora, per capriccio, si tramutò in toro e riportò la vittoria. Paride, senza esitare, lo premiò con la corona promessa e quel gesto piacque molto ad Ares e a tutti gli altri dei che stavano a guardare dall'Olimpo. Ecco perché Zeus lo scelse come arbitro nella contesa delle 3 dee. Paride stava pascolando la sua mandria sul monte Gargaro, la vetta più alta dell'Ida, quando Ermete, accompagnato da Era, Atena e Afrodite, gli consegnò la mela d'oro e il messaggio di Zeus. «Paride! Poiché tu sei un giovane tanto bello quanto esperto negli affari di cuore, Zeus ti ordina di giudicare quale di queste dee è la più bella». Paride, dubbioso, prese la mela tra le mani. «Come potrebbe un semplice mandriano come me divenire arbitro della divina bellezza?» disse. «Dividerò la mela tra le 3 dee». «No, no!» replicò ansioso Ermete, non puoi disobbedire all'ordine dell'onnipotente Zeus, né io sono autorizzato a darti il mio consiglio. Fai buon uso della tua naturale intelligenza. E così sia, sospirò Paride, ma prima vorrei pregare le perdenti di non serbarmi rancore, sono soltanto un essere umano in grado di commettere i più stupidi errori. Le dee in coro promisero di rimettersi alle sue decisioni. «Basterà che io le giudichi così come sono?» chiese Paride a Ermete. «Oppure debbono essere nude? Tocca a te stabilire le regole della gara», rispose Ermete con un discreto sorriso. «In tal caso, vogliono acconsentire a spogliarsi?» Ermete disse alle dee di obbedire ed educatamente voltò loro la schiena. Afrodite fu subito pronta, ma Atena volle che ella si togliesse anche la famosa cintura magica che le dava lo sleale vantaggio di fare innamorare tutti di sé. «Benissimo», rispose Afrodite seccata. «Io me la toglierò, ma a patto che tu ti liberi dell'elmo. Sei orribile senza». «Ora, se non vi dispiace», disse Paride, «vorrei esaminarvi a una per non essere distratto dalle discussioni. Avvicinati, divina Era. E voi due sarete gentili da lasciarci per qualche minuto?» «Esaminami coscienziosamente», disse Era, girando piano piano su se stessa per mettere in luce la sua splendida figura. «E ricordati che se mi giudicherai la più bella, farò di te il padrone dell'Asia e il più ricco dei viventi. Io non mi lascio comprare, mia signora». «Benissimo, grazie. Ho veduto quanto basta. Vieni avanti, divina Atena». «Eccomi», rispose Atena avanzando con passo risoluto. «E tu ascoltami, Paride. Se sarai tanto assennato da assegnarmi il premio, farò di te il più bello e il più saggio degli uomini, vincitore di tutte le battaglie. «Sono un umile pastore, non un guerriero», disse Paride, «e tu stessa puoi vedere che la pace regna nella Lidia e nella Frigia e che la sovranità di re Priamo è incontestata. Ma prometto di tenere in considerazione le tue legittime pretese alla mela. Ora puoi rivestirti e rimetterti l'elmo. È pronta, Afrodite?» Afrodite gli scivolò accanto e Paride arrossì, perché era tanto vicina che quasi i loro corpi si toccavano. «Guarda bene, Paride, e che nemmeno un particolare ti sfugga. Bada che appena ti vidi, dissi a me stessa, parola mia, questo è il più bel giovane dell'intera Frigia. Perché si è seppellito su una montagna badando a una stupida mandria? Ebbene, perché, caro Paride, perché non te ne vai in città per vivere una vita civile? Che ci perderesti a sposare Elena di Sparta, esempio, che è bella quanto me e non meno ardente? Sono certa che, se ti vedesse, abbandonerebbe la sua casa e la sua famiglia, tutto, insomma, per divenire la tua amante. Certo, tu hai sentito parlare di Elena. Mai fino a oggi, mia signora, e ti sarò grato se vorrai descrivermela. Elena è bionda e di carnagione delicata, poiché nacque da un uovo di cigno. Può vantarsi di avere Zeus come padre, ama la caccia e la lotta, provocò una guerra quando era ancora bambina e, raggiunta l'età da marito, fu chiesta in sposa da tutti i principi della Grecia. Ora è moglie di Menelao, fratello del gran re Agamennone, ma ciò non crea ostacoli, può essere tua se lo vorrai. Com'è possibile se è già sposata? Oh cielo, quanta innocenza! Non hai mai saputo che è mio divino dovere sistemare questioni del genere? Ti consiglio di recarti in Grecia sotto la guida di mio figlio Eros, non appena avrai raggiunto Sparta, e gli farai in modo che Elena si innamori pazzamente di te. Puoi giurarmelo? Gridò Paride eccitato. Afrodite pronunciò un giuramento solenne e Paride, senza pensarci due volte, le consegnò la mela d'oro. Con questo suo giudizio si attirò l'odio insanabile di Era e di Atena, che si allontanarono a braccetto complottando la distruzione di Troia, mentre Afrodite, con un perfido sorriso, già pensava a come tenere fede alla sua promessa. Poco tempo dopo Priamo mandò i suoi servi a scegliere un toro nella mandria di Agelao. L'animale avrebbe dovuto essere assegnato in premio al vincitore dei giochi funebri che si celebravano ogni anno in onore del morto figlio del re. Quando i servi scelsero il toro campione, Paride provò l'irresistibile desiderio di partecipare ai giochi. Invano Agelao tentò di distoglierlo dal suo proposito. «Puoi continuare a far combattere i tori anche quassù, che altro vuoi?» Ma Paride insistette e infine Agelao lo accompagnò a Troia. Era usanza troiana che, al termine del sesto giro di pista della corsa dei cocchi, i concorrenti alla gara di pugilato cominciassero a battersi dinanzi al trono. Paride decise di competere e, nonostante le suppliche di Agelao, balzò nell'arena e vinse la corona, più per coraggio che per abilità. Arrivò primo anche nella gara di corsa e la cosa esasperò i figli di Priamo, che lo sfidarono di nuovo, e così vinse la terza corona. Vergognandosi per quella pubblica umiliazione, i principi pensarono allora di ucciderlo e posero una guardia armata a ogni uscita dello stadio, mentre Ettore e Deifobo attaccavano Paride con le loro spade. Paride si rifugiò sull'altare di Zeus e Agelao corse verso Priamo gridando «Maestà, questo giovane è il figlio vostro che credevate perduto!» Priamo convocò subito Ecuba, la quale, esaminato un sonaglio che Agelao aveva trovato nelle mani del bimbo abbandonato, confermò l'identità di Paride. Questi allora fu condotto trionfalmente al palazzo dove Priamo festeggiò il suo ritorno con un sontuoso banchetto e sacrifici agli dèi. Tuttavia, non appena i sacerdoti di Apollo ebbero udito questa notizia, annunciarono che Paride doveva essere immediatamente condannato a morte, altrimenti Troia sarebbe stata distrutta. Il loro verdetto fu riferito a Priamo, che rispose «Perisca pure Troia, ma non il mio bel figliolo». I fratelli di Paride, che erano già sposati, insistettero perché egli prendesse moglie. Ma Paride rispose che Afrodite gli avrebbe scelto la sposa e, come al solito, innalzava a lei ogni giorno le sue preghiere. Quando fu convocato un altro concilio per discutere della liberazione di Esione, dato che le offerte pacifiche erano state respinte dai greci, Paride si offerse volontario per guidare la spedizione se Priamo gli avesse allestito una flotta potente e ben munita. Aggiunse astutamente che se non fosse riuscito a riprendersi Esione, forse avrebbe portato con sé una principessa greca sua pari per trattare il riscatto. Ma in cuor suo, naturalmente, egli aveva già deciso di recarsi a Sparta e di rapire Elena. Quello stesso giorno Menelao arrivò inaspettatamente a Troia e chiese di visitare le tombe di Lico e di Chimero, figli di Prometeo e di Celeno l'Atlantide. Disse che l'oracolo delfico gli aveva imposto di sacrificare sulle loro tombe per por fine alla pestilenza che faceva strage in Sparta. Paride si intrattenne con Menelao e gli chiese di essere purificato da lui a Sparta, poiché senza volerlo egli aveva ucciso Anteo, il giovane figlio di Antenore, con una spada da bambini. Quando Menelao acconsentì, Paride, per consiglio di Afrodite, ordinò a Fereclo, figlio di Tettone, di allestire la flotta promessagli da Priamo. La figura che ornava la prua della nave ammiraglia era un'Afrodite con un piccolo Eros tra le braccia. Il cugino di Paride, Enea, figlio di Anchise, acconsentì ad accompagnarlo. Cassandra, i capelli irti in capo, predisse la guerra che sarebbe nata da quel viaggio ed Eleno appoggiò le sue parole. Ma Priamo non badò ai suoi figli profetici. Nemmeno Enone riuscì a dissuadere Paride, benché egli piangesse al momento del congedo. «Ritorna da me, se mai sarai ferito», gli disse Enone, «perché io sola saprò curarti». Appena la flotta fu salpata, Afrodite fece alzare una brezza favorevole e Paride ben presto giunse a Sparta, dove Menelao festeggiò il suo arrivo per 9 giorni. Durante il banchetto Paride offrì a Elena i doni che le aveva portato da Troia, e i suoi sguardi infuocati, i suoi alti sospiri e i suoi arditi cenni la misero in grande imbarazzo. Preso tra le mani il calice di Elena, Paride se lo portò alle labbra dalla parte dove la regina aveva bevuto. Arrivò a tracciare sulla tovaglia col dito intinto di vino le parole «Ti amo, Elena». Elena ebbe paura che Menelao la sospettasse di incoraggiare la passione di Paride, ma Menelao, che era uomo poco osservatore, partì per Creta, dove doveva partecipare alle esequie di suo nonno Catreo, e lasciò a Elena il compito di intrattenere gli ospiti e di governare in sua assenza. Elena fuggì con Paride la sera stessa e gli fece dono di sé nel primo porto dove gettarono l'ancora, cioè nell'isola di Cranae. Sulla terraferma, di fronte a Cranae, sorge ora il tempio di Afrodite che unisce, fondato da Paride per ricordare l'evento. Alcuni sostengono erroneamente che Elena rifiutò le proposte di Paride e che egli la rapì con la forza mentre partecipavano assieme a una partita di caccia, oppure in Sparta stessa, oppure assumendo, con l'aiuto di Afrodite, l'aspetto di Menelao. Elena abbandonò a Sparta la figlia Ermione di 9 anni, ma portò via con sé il figlio Plistene, la maggior parte dei tesori di corte e oro per il valore di 3 talenti dal tempio di Apollo. Inoltre la accompagnarono 5 ancelle, tra le quali erano 2 ex regine, Etra, la madre di Teseo, e Tisadia, sorella di Pirito. Mentre la flotta troiana veleggiava verso Troia, una violenta tempesta suscitata da Era costrinse Paride a rifugiarsi a Cipro. Di lì egli fece vela per Sidone e ivi fu accolto dal re. Ma Paride, ormai esperto degli usi del mondo greco, assassinò e derubò a tradimento il suo ospite nella sala dei banchetti. Mentre il ricco bottino veniva imbarcato sulle navi, un gruppo di sidoni attaccò i troiani. Questi li respinsero e, dopo aspra lotta che costò loro la perdita di 2 navi, presero il largo. Temendo di essere inseguito da Menelao, Paride si attardò per molti mesi in Fenicia, a Cipro e in Egitto. Poi, raggiunta infine Troia, celebrò le sue nozze con Elena. I troiani accolsero Elena con entusiasmo, rapiti da tanta bellezza. Un giorno, trovato sulla cittadella di Troia un sasso che stillava sangue se lo si soffregava contro un altro, Elena riconobbe in esso un potente afrodisiaco e lo usò per tener desta la passione di Paride. Non soltanto. Tutta Troia si innamorò di lei e Priamo giurò di non lasciarla mai più ripartire. Secondo una versione del tutto diversa, Ermete rapì Elena per ordine di Zeus e la affidò al re Proteo d'Egitto. Frattanto, un fantasma di Elena, fabbricato da Era o secondo altri da Proteo con una nuvola, fu mandato a Troia con Paride al solo scopo di provocare la guerra. I sacerdoti egiziani affermano, e la loro ipotesi è altrettanto improbabile, che la flotta troiana fu spinta fuori rotta dai venti contrari e che Paride approdò alla pianura salata presso la bocca canopica del Nilo. Colà sorge un tempio di Eracle, asilo per gli schiavi fuggiaschi che quando vi giungono si offrono al dio e ricevono certe sacre impronte sul loro corpo. I servi di Paride vi si rifugiarono e, dopo essersi assicurata la protezione dei sacerdoti, accusarono il padrone d'aver rapito Elena. La notizia fu portata a conoscenza di re Proteo a Menfi e il re fece arrestare Paride e ordinò che glielo portassero dinanzi con Elena e il tesoro rubato. Dopo un severo interrogatorio, Proteo scacciò Paride, ma trattenne in Egitto Elena e il tesoro, in attesa che Menelao venisse a riprenderseli. In Menfi sorge il tempio di Afrodite la straniera, che si dice sia stato consacrato da Elena stessa. Elena generò a Paride tre figli, Bunomo, Agano e Ideo, morti tutti e tre ancora bambini a Troia per il crollo di un tetto, e una figlia chiamata anch'essa Elena. Paride aveva avuto da Enone un figlio maggiore, di nome Corito, ed Enone, gelosa di Elena, lo mandò tra i greci perché li guidasse contro Troia. A Stesicoro, poeta siciliano del VI secolo, si attribuisce la leggenda che Elena non giunse mai a Troia e che la famosa guerra fu combattuta per un fantasma. Dopo aver scritto un poema che metteva Elena in assai cattiva luce, il poeta divenne cieco e gli fu detto che su di lui era ricaduto il corruccio postumo dell'eroina. Da qui la sua palinodia che cominciava. «Questa è la verità. Tu non ti imbarcasti mai sulla nave dalle belle panche, né raggiungesti le torri di Troia», e avendola declamata in pubblico, riacquistò la vista. Infatti non appare chiaro perché Paride o Teseo prima di lui avesse rapito Elena. Elena era il nome della dea luna spartana. Sposandola, dopo aver sacrificato un cavallo, Menelao divenne re. Tuttavia Paride non ne usurpò il trono. È possibile naturalmente che i troiani facessero una scorreria a Sparta, portandosi via i tesori e l'erede al trono per vendicarsi del saccheggio di Troia compiuto dai greci, come è implicito nella leggenda di Esione. Tuttavia, benché l'Elena di Teseo fosse forse in carne e ossa, l'Elena di Troia fu molto probabilmente quel fantasma cantato da Stesicoro. Ciò si è detto per dimostrare che Mnesteres tes Elenes, i pretendenti di Elena, erano in verità Mnesteres tu e Lesponto, cioè coloro che pretendevano l'accesso all'Elesponto, e il solenne giuramento pronunciato dai re sulle carni sanguinanti del cavallo consacrato a Posidone, dio patrono della spedizione, doveva appoggiare i diritti di ogni membro della confederazione al libero transito nell'Elesponto, nonostante i divieti dei troiani e dei loro alleati asiatici. Dopotutto l'Elesponto portava il nome della loro dea Elle. La nascita di Paride segue lo schema mitico della nascita di Eolo, di Pelia, di Edipo, di Giasone e di altri. Egli è insomma il fanciullo dell'anno nuovo e il figlio di Agelao e il suo gemello. Pure consueta è la sua vittoria sui 50 figli di Priamo nella gara di corsa. Enone pare fosse il titolo di una principessa che egli ebbe in premio in quella circostanza. Paride non premiò affatto la più bella delle tre dee con una mela d'oro. La leggenda fu tratta erroneamente da una raffigurazione dove si vedeva Eracle che riceveva un ramo di melo dalle Esperidi. L'ignuda triade delle dee ninfe, come Adano di Ebron immortalato dalla Cananea gran madre di tutti i viventi, oppure come il vincitore della gara podistica di Olimpia mentre riceve il suo premio. E ciò è provato anche dalla presenza di Ermete, che conduce le anime sua guida nei campi Elisi. Nel corso del XIV secolo prima di Cristo, l'Egitto e la Fenicia ebbero a soffrire per le frequenti incursioni dei Keftiu, ossia popoli del mare, tra i quali pare che i troiani avessero una parte di primo piano. Fra le tribù che riuscirono a consolidarsi in Palestina vi erano i Girgasciti, e cioè i teucri di Gergite nella Troade. Priamo ed Anchise figurano nell'Antico Testamento come Piram e Achish, mentre Fares l'antenato della mista tribù di Giuda, che combatté con il suo gemello ancora nel ventre della madre, pare fosse Paride. La pietra che stillava sangue trovata da Elena nella cittadella di Troia si ricollega alla morte di Munippo, nipote di Priamo, che fu ucciso appunto nella cittadella. Paride poté continuare a essere il marito della regina sacrificando un fanciullo ogni anno. Anteo, fiorito, è anch'esso una di queste vittime. Il suo nome, un appellativo di Dioniso primaverile, fu dato ad altri principi sventurati, morti nel fiore dell'età. Tra essi si annoverano il figlio di Posidone, ucciso e spellato da Cleomene, e Anteo di Alicarnasso, annegato in un pozzo per mano di Cleobi. Cilla, il cui nome significa dadi divinatori fatti con ossi di asino, deve essere Atena, la dea della cittadella troiana che inventò questa forma d'arte divinatoria e presiedette alla morte di Munippo.